Maria, la più privilegiata tra le donne. Ecco, io sono l'ancella del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola, balbettò Maria totalmente schiacciata dal messaggio che l'angelo apparsole aveva appena portato. Poi ripensò a quello che lui le aveva detto. Lei, Maria, sarebbe stata la madre del Messia. Il Redentore, che era stato promesso prima ad Adamo, poi più chiaramente ad Abramo e predetto ancor più da vari profeti, sarebbe stato portato nel mondo attraverso di lei. Si rese conto che egli sarebbe venuto tramite lei. Ogni donna ebrea aveva sperato nel privilegio di essere la madre del Messia. Ora il momento era giunto, e lei era stata scelta per esserne la madre, proprio lei che non aveva mai pensato di poter essere scelta. Era giovane, veniva da un villaggio insignificante, e poi come avrebbe potuto dare alla luce un bambino? Non era neanche sposata, era solo fidanzata. Non c'era da meravigliarsi che avesse replicato: «Ma io sono vergine e non ho marito, come può avvenire questo?» L'angelo aveva cominciato con il dire: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio». Poi proseguì, affermando che lo Spirito Santo avrebbe operato questo miracolo in lei e che il suo bambino sarebbe stato chiamato figlio di Dio. Maria conosceva Dio attraverso i libri di Mosè, i Salmi e gli scritti dei profeti. Aveva nel cuore una profonda reverenza per il Signore Dio e conosceva quello che Lui aveva fatto nella storia del suo popolo. Era al corrente dell'opera compiuta da Dio non solo per la nazione, ma anche per certi individui. La sua grandissima grazia verso coloro che lo temono le era nota, così come la sua preferenza nell'agire per mezzo dei deboli, coloro che agli occhi del mondo sono senza forza. Sapeva benissimo anche di non avere né posizione né ricchezza. Per quale ragione Dio aveva scelto proprio lei? Eppure, lei era uno strumento che egli poteva utilizzare? Proprio perché non poteva dire di avere in sé qualcosa per cui il mondo potesse onoraria. Maria era pronta a sacrificare se stessa, a diventare la sua più umile ancella, e per questo replicò all'angelo: «Ecco la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola». Apparentemente pare una risposta facile, ma se pensiamo alla cultura di quel tempo, la quale prevedeva la lapidazione per una fanciulla vergine eventualmente rimasta incinta e ancor di più se fidanzata, vediamo in Maria la dimostrazione di un coraggio non comune. La ragazza avrebbe potuto discutere con l'angelo di questa cosa, avanzare le varie problematiche inerenti alla sua gravidanza, invece, si sottomise completamente alla volontà di Dio e senza discutere. L'angelo aveva rivelato pure a Maria che Elisabetta, sua parente, aspettava un bambino da 6 mesi, perché questa notizia, che del resto non era poi così necessaria, l'angelo confidò a Maria questo particolare perché sapeva che lei era a conoscenza della sterilità della cugina. Elisabetta era ormai avanti di età e una gravidanza per lei era quasi impossibile, perciò l'annuncio di questo evento straordinario stava implicitamente indicando che la profezia rivoltale si sarebbe certamente adempiuta in modo miracoloso. Come Dio era stato in grado di agire in Elisabetta così, avrebbe compiuto un miracolo ancora più grande in lei, perché, come disse l'angelo, nulla è impossibile con Dio. Sì, colui che aveva creato l'uomo dalla polvere della terra, che gli aveva soffiato uno spirito vitale nelle narici, era in grado anche di assumere un corpo o divenire carne in un ventre femminile vergine. Come sia successo esattamente non si sa spiegare, ma fu opera dello Spirito Santo, la medesima natura umana di Adamo, ma contemporaneamente fosse anche partecipe della stessa natura divina di Dio. La parola di Dio ci dice che, dopo l'apparizione dell'angelo, Maria partì in fretta diretta in un piccolo villaggio vicino a Gerusalemme a visitare la sua parente Elisabetta, anch'essa incinta. Senza parlarle del suo stato, Elisabetta le diede il benvenuto, chiamandola beata fra le donne. Ripiena dello Spirito Santo, l'aveva chiamata madre del mio Signore. Maria ricordava le sue reazioni. Era stato come una esplosione di lode a Dio, un inno che lui aveva messo nel suo cuore. Era stata profondamente impressionata dalla varietà degli avvenimenti. La gente l'avrebbe chiamata beata attraverso tutte le generazioni future, non per merito suo, ma per quello che Dio aveva fatto. Egli era grande, santo e potente. Essa non era degna di questo e non aveva da offrire che la sua gratitudine e la sua lode, e il bambino che sarebbe nato sarebbe stato suo salvatore. Benché si sentisse privilegiata, si rendeva conto pure di essere una peccatrice bisognosa del salvatore. Il nascituro avesse, in modo che l'umiltà di Maria può essere vista nel suo Magnificat, la lode profondamente impressionante da lei, rivolta a Dio. Essa non poteva sapere che, perfino centinaia di anni dopo, milioni di persone ne sarebbero state commosse e indotte ad amare Dio, tramite l'amore che sgorga dalle sue parole. Quando il bambino stava per nascere, Cesare Augusto ordinò un censimento di tutta la nazione. Giuseppe e Maria, per registrare i loro nomi, dovettero affrontare un lungo viaggio da Nazareth a Betlemme, l'antica casa del re Davide, antenato di ambedue. Come è facile immaginare che non c'erano più posti per dormire. Betlemme, situata sulla strada delle carovane che da Gerusalemme portava ad Hebron, era una cittadina di grande passaggio. Venne per Maria il momento del parto. Il bambino nacque fuori dalla città, in una caverna, nella quale gli animali dei contadini venivano tenuti d'inverno. Era triste per Maria che suo figlio non avesse neanche un letto in cui dormire nella sua prima notte terrena. Mentre lei e Giuseppe erano soli, era avvenuto un miracolo. Il buio della notte era stato squarciato da una luce più chiara del giorno. Improvvisamente un grande esercito di angeli era apparso. Gloria a Dio nei cieli altissimi e pace in terra. Avevano cantato mentre proclamavano la nascita del Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. I pastori, avvertiti dagli angeli, si erano recati alla stalla. Erano uomini poveri, con visi segnati dalle fatiche. Più tardi giunsero degli uomini ricchi, degli studiosi provenienti dall'Oriente. Essi avevano fatto un lungo viaggio per portare onore e doni preziosi, oro, argento e mirra. In questo modo suo figlio era stato annunciato da Dio e aveva ricevuto il benvenuto sia dai ricchi sia dai poveri. Maria rimase quieta, non sapendo cosa dire. Nel suo cuore serbava però tutti questi ricordi preziosi. Improvvisamente, mentre portavano il loro figlio nel tempio, un uomo molto anziano si era avvicinato a loro e aveva preso il bambino fra le braccia. Era Simeone, un individuo devoto che da molto tempo aspettava per rivelazione la venuta del Messia. «Tu hai mantenuto la tua promessa, Signore, ora lascia che il tuo servo se ne vada in pace», lo sentirono dire molto meravigliati. Egli continuò: «Perché ho visto colui che tu hai promesso di farmi vedere? Ho veduto il Salvatore che tu hai dato al mondo». Le parole di quell'uomo erano guidate dallo Spirito Santo. Non c'erano più dubbi nella mente di Giuseppe e di Maria. Essi tenevano fra le braccia un bambino veramente particolare. Anche Anna, una profetessa anziana che come Simeone aveva passato la maggior parte della vita nella presenza di Dio, riconobbe il loro figlio come il Messia promesso. Prima che Anna se ne andasse nella città per annunciare alla gente che la redenzione di Gerusalemme era vicina, Simeone proferì qualcosa di notevole a Maria. «Ascolta attentamente, questo bambino sarà da molti rigettato in Israele, ma sarà per altri la più grande gioia. I pensieri più profondi di parecchi cuori saranno rivelati, ma una spada trafiggerà la tua anima». È quasi certo che Maria non abbia capito il significato profondo della profezia, ma certamente afferrò che qualcosa di doloroso l'aspettava. Poco tempo dopo capitò loro il primo evento doloroso. Il re Erode aveva fatto uccidere tutti i maschi dai 2 anni in giù in Betlemme, con la speranza di far fuori con loro anche il re dei Giudei, del quale aveva ricevuto annuncio dai magi. Giuseppe e la sua piccola famiglia fuggirono, perché avvertiti da un angelo di Dio. Furono costretti però a un lungo viaggio attraverso l'inospitale deserto del Negev, un posto praticamente senza cibo e senza acqua. Quello che rendeva ancora più difficile per Maria questo viaggio era sapere dei tanti bambini uccisi per via di suo figlio. Nella sua mente essa sentiva le grida dei bambini innocenti, brutalmente uccisi. Essendo lei stessa madre da poco tempo, poteva facilmente identificarsi col dolore delle madri di quei bambini. La madre del figlio di Dio si rese conto maggiormente di quante lacrime si mescolassero alla sua grande gioia. Passarono 10 anni. Le strade di Gerusalemme erano molto affollate. Famiglie intere erano là per celebrare la Pasqua nella Santa Città e per onorare il Signore con i loro sacrifici. Era un'occasione felice per poter adorare il Signore in compagnia di vecchi amici, che si incontravano solo in tali festività. Per via del gran numero di famiglie in visita alla città, c'erano tantissimi bambini. Gli adulti godevano il contatto, purtroppo troppo raro, con parenti e amici lontani. Camminavano e parlavano ad alta voce, l'uno con l'altro nelle strade. I bambini cinguettavano come uccellini mentre danzavano e saltavano insieme. Era facile che l'assenza di un bambino non venisse notata in tale assembramento di persone. I genitori di Gesù naturalmente prendevano per scontato che il bambino fosse in compagnia di un altro gruppo. Ecco perché Giuseppe e Maria scopersero soltanto dopo una giornata piena e stancante del viaggio di ritorno a casa, che Gesù non era con loro. Non si trovava da nessuna parte, con il cuore pesante. Tornarono a Gerusalemme per cercarlo. Guardarono senza successo. Infine, dopo una ricerca di 3 giorni, lo trovarono nel Tempio. Il giovane Gesù era seduto tra i rabbini, uomini di grande conoscenza. Non solo li stava ascoltando, ma poneva loro delle domande molto imbarazzanti. Essi si meravigliavano di lui per la sua intelligenza, per la sua comprensione e per le risposte sagge e ben date. Maria era inquieta. «Figlio, lo rimproverò, perché ci hai fatto questo? Tuo padre ed io ti abbiamo cercato in tutta Gerusalemme. Non avreste dovuto cercarmi. Non sapevate che io devo stare nella casa di mio padre?» La risposta di Gesù non fu sgarbata, ma chiara e priva di ogni possibilità di dubbio. Suo padre. Ma Giuseppe l'aveva cercato dappertutto insieme alla madre. Maria non aveva capito che lui stava parlando del suo padre celeste. Gesù cominciava a staccarsi da loro. Cominciava il viaggio della sua vita verso il vero destino assegnatogli. Egli era il figlio che avevano perduto, ma era anche il figlio di Dio, il Redentore di un mondo perduto. Il legame tra lui e la sua famiglia terrena aveva già cominciato ad allentarsi. Questa esperienza aveva forse ricordato a Maria le parole di Simeone. Stava già sperimentando i dolori iniziali della spada che le avrebbe trafitto il cuore? Quando rientrarono a Nazareth, tutto sembrava tornato come prima. Gesù era ubbidiente, ma qualcosa era successo nel cuore di Maria. Ne serbava il ricordo e lo aveva registrato nel suo cuore assieme agli altri. Le si stava dando l'opportunità di sottomettere i suoi desideri materni alla volontà di Dio. I loro anni insieme furono sereni, mentre Gesù cresceva e diventava uomo. L'influenza materna su di lui durante questo periodo fu grande. Gesù divenne saggio. Non aveva forma né bellezza alcuna, ma era amato sia da Dio sia dagli uomini. Gesù, figlio di Dio, che era perfetto come bambino, crebbe e divenne un uomo. Questo è un mistero santo, come in quanto Dio e anche uomo in terra potesse sottomettersi all'influenza di Maria. Gesù non crebbe in una famiglia ricca e socialmente privilegiata, ma il suo ambiente spirituale era invidiabile. Ambedue i genitori camminavano con Dio e si rispettavano l'un l'altro. I pensieri di Maria in modo particolare erano rivolti a Dio. I pensieri di una persona ne determinano le azioni. Seguendo quel principio, Giuseppe e Maria cercarono di rendere la loro casa e l'educazione dei loro figli conforme ai pensieri di Dio. C'era un'atmosfera amichevole in quella piccola casa di Nazareth. era permeata da uno spirito di vera umiltà e una devozione naturale rendeva facile ai figli obbedire ai genitori. Fu nella casa di Giuseppe e Maria che Gesù ebbe il primo incontro con le scritture. L'amore della madre per la parola di Dio fu un esempio per suo figlio. Per altri 18 anni egli visse nella casa dei suoi genitori. A Maria e a Giuseppe nacquero altri figli, una prova per loro di essere benedetti da Dio. C'erano maschi, Giacomo, José, Simeone e Giuda, e anche delle femmine. Siccome Giuseppe morì durante questo periodo, è probabile che Gesù, come figlio maggiore, abbia condiviso con la mamma i problemi della famiglia e fosse responsabile per il loro mantenimento. La gente non lo chiamava più il figlio del falegname, ora era lui il falegname. Quando Gesù ebbe 30 anni, tutto cambiò. Maria lo vide chiaramente quando insieme parteciparono alla festa di nozze in Canaan, un piccolo villaggio vicino a Nazareth sulle colline della Galilea. Essa notò il grande imbarazzo del padrone di casa perché il vino stava scarseggiando. La sua prima reazione fu quella di rivelare il problema al suo primogenito, ma fece una scoperta dolorosa. Suo figlio sembrava cambiato. Non si stava comportando come il figlio ubbidiente, che lei conosceva tanto bene. «Donna», le rispose, «che cosa ho io da fare con te?» Indirizzandosi a lei in quel modo, non dimostrava mancanza di rispetto o di amicizia. Per le donne ebree era costume che gli altri si rivolgessero a loro in questa maniera, ma questo indicava chiaramente un distacco tra lui e la madre. L'aveva mai trattata prima in questa maniera? Poi i suoi ricordi molto probabilmente la riportarono a quel giorno nel Tempio. In quel momento egli aveva mostrato nella stessa maniera, più o meno, che lui, benché fosse suo figlio, non poteva obbedire a tutti i suoi ordini. Egli aveva degli ordini più alti da ottemperare. Umanamente parlando, Maria poteva essere permalosa e sentirsi inquieta, ma non lo fece vedere. «Fate quello che lui vi dirà», disse ai servitori, perché sapeva che lui era Dio e poteva operare miracoli. Era disposta a prendere il secondo posto. Aveva forse già capito che più tardi egli avrebbe insegnato l'ordine prioritario disposto da Dio in relazione al servizio. Quando iniziò il ministero, egli lasciò Maria per sempre. D'allora in poi, egli non fu prima di tutto figlio di Maria. Ma Gesù di Nazaret e l'intero paese cominciò a parlarne, perché il figlio di Dio andava in giro per tutta la contrada a far del bene. Maria imparò a tirarsi indietro, però non senza soffrire. Sempre più sperimentò il lato tagliente della spada nella sua vita, ma si rese conto pure che al suo dolore era collegato il favore di Dio. Tutto ciò che rimaneva da fare era essere disponibile per lui. Ripetutamente. Mentre Gesù andava per tutto il paese sanando gli ammalati e predicando il Vangelo, la fede di Maria può aver subito un eventuale tentennamento. Era senza dubbio una cosa dolorosa per lei accettare l'incredulità degli altri figli nei confronti del suo primogenito e il rifiuto che la gente di Nazaret gli rivolgeva. Gesù lo palesò con una chiarezza che la fece soffrire quando gli fu comunicato che i suoi familiari desideravano parlargli. «Tua madre e i tuoi fratelli sono qui e vogliono che tu venga da loro». Ma egli rispose: «Chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli?» Poi aggiunse, mentre indicava i suoi discepoli: «La persona che fa la volontà di Dio è mio fratello e sorella, e mia madre». Dunque, gli uomini e le donne con i quali egli si mescolava giorno per giorno, e i suoi seguaci, erano pari a lei. Le relazioni non erano più messe alla prova con legami di sangue, ma col vincolo di una fede in Dio condivisa. Ma arrivò il momento più doloroso. La spada trafisse la sua anima fino in fondo, mentre stava ai piedi della croce sulla quale era appeso suo figlio come un criminale chiunque. Fu lì che la sofferenza di Maria trovò il suo culmine. Egli non cercò di ignorarla, né cercò di far sì che fosse più facile per lei. Come lui, essa beve l'amaro calice della sofferenza. Fino all'ultima goccia, era con lui al suo ultimo momento. Ne vide l'agonia e sentì quanto era disprezzato e preso in giro. Le ore passavano lentamente nel sole bruciante e qualcuno che lei amava più di tutti, soffriva come non potrà mai soffrire un altro uomo. Maria stette sotto la croce e soffrì con lui. Questo faceva parte della sua missione di madre. Le parole da lei pronunciate davanti all'angelo le risuonavano ancora nella mente. «Mi sia fatto! Secondo la tua volontà, essa fu in grado di resistere solo perché si era arresa totalmente al Signore. I suoi sentimenti erano di secondaria importanza. Gesù la vide e, benché nell'agonia della morte, non dimenticò di curarsi di lei. «Donna, questo è tuo figlio», lo sentì dire. Poi disse a Giovanni, l'uomo che lui amava più di qualunque altro in terra, «Questa è tua madre». Gesù non lasciava la sua vita terrena senza prendersi cura della madre, un gesto di profonda umanità. L'uomo e la donna che sulla terra gli erano stati più vicini avrebbero potuto meglio comprendersi, di aiutarsi l'un l'altro dopo la sua dipartita. Da allora in poi, Maria andò a vivere nella casa di Giovanni. Quella della croce non è l'ultima apparizione di Maria nelle scritture. Compare di nuovo con i discepoli di Gesù e diverse altre donne, oltre ai suoi figli, dopo l'ascensione di Cristo. Nell'alto solaio a Gerusalemme, Maria dedicò se stessa, insieme agli altri, alla preghiera costante. Benché avesse perso suo figlio, non si preoccupava della perdita personale, ma accettava il fatto. Il suo compito nei riguardi di Gesù era stato adempiuto. La spada le aveva trapassato l'anima, ma lei era stata vittoriosa. Maria, la donna più benedetta e più privilegiata di tutte, il cui nome è più onorato di quello di qualsiasi altro mortale, dedicò se stessa nuovamente a Dio, o di nuovo, non aveva altro da chiedere. Senza mettersi in mostra, prese il suo posto fra gli altri. Maria sapeva di poter trascurare gli interessi personali e dedicare se stessa interamente alla gloria di Dio. Ora Maria era diventata una donna matura. Negli ultimi 30 anni di vita, molto probabilmente aveva raggiunto delle cime sconosciute di felicità, ma allo stesso tempo aveva sperimentato un dolore profondo nel cuore, quale nessuna altra donna ha mai avuto, né avrà mai, eppure il suo atteggiamento verso Dio non era cambiato. Essa aveva dato prova con la sua vita di aver parlato in tutta serietà quando le era stato comunicato l'incarnazione nel suo ventre del Messia, e lei rispose: «Io sono l'ancella del Signore. Mi sia fatto secondo la sua volontà». Studio facente parte di 21 trasmissioni Donne della Bibbia, tratti da qualche parte e rivisti,